Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 26 maggio, buongiorno, sempre da Caterina Bombarda e da Antonella Cortese, siamo sempre su Liberi Dentro, anche oggi, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, oggi vi parliamo di università, i 1000 che studiano in carcere. Leggo l'articolo di Corrado Zunino sulla Repubblica. E perché sono ormai trascorsi 3 anni dall'istituzione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Universitari, la cosiddetta CNUPP, istituita per l'appunto 3 anni fa dalla Conferenza dei Rettori, e alla fine del primo mandato ha offerto un po' un riassunto delle attività svolte, e sarebbero stati coinvolti 32 atenei già in Italia e 82 istituti penitenziari. E il professor Simonetta, che è il professore della statale, ha dichiarato 100 esami anche durante la pandemia. E da 3 anni l'università italiana entra nelle carceri del paese, in 82 carceri per la precisione, e offre una prospettiva di riemersione alla vita attraverso lo studio. Questo è l'ultimo bilancio dell'anno accademico, che ha coinvolto 1034 persone, sono gli studenti appunto detenuti, e 21 sono quelli in regime di 41 bis fra questi 1000. Senti Caterina, ma che cosa amano studiare i detenuti in carcere? Quali sono le facoltà a cui si iscrivono di solito? Ma guarda Antonella, risulta dai dati che le aree disciplinari più frequentate sono quella politico-sociale, quindi il 25,4% si iscrive a questi tipi di facoltà, oppure anche l'area artistico-letteraria, ma anche chi studia per esempio in area giuridica, oppure agronomico-ambientale, psicopedagogica, e poi infine anche studi storico-filosofici e in area economica. Quindi c'è una grandissima varietà, diciamo più che altro materie umanistiche. E poi c'è anche questo da dire, che la CNUP si occupa anche del trasferimento di ateneo per i detenuti che magari cambiando carcere devono anche fare il trasferimento di ateneo, quindi c'è anche questo doppio filone del trasferimento degli studi. Si stanno sperimentando ancora possibilità di didattica a distanza, non soltanto dovuta alla pandemia, ma anche perché è necessario, cioè la didattica a distanza per chi non ha possibilità spesso di uscita, che abbia almeno la possibilità di frequentare anche mentre è in carcere. Caterina, senti, in realtà in questo periodo le università, tutti gli studenti universitari hanno subito un sacco di piccoli problemi di adeguamento, perché non è stato facile rimpostare tutto il lavoro. E quindi gli studi universitari sono proseguiti in carcere anche durante la pandemia? Allora, questo è quello che dichiara il dottor Stefano Simonetta, cioè il docente di storia e filosofia e referente dell'Ateneo. Lui dice: c'è grande soddisfazione per i risultati raggiunti. Quando siamo partiti gli studenti ristretti erano appena 5 e ora, nonostante l'anno della pandemia, nel 2020 80 universitari hanno dato 100 esami. Però bisogna essere onesti, bisogna aggiungere che in molti casi la situazione pandemica ha ostacolato moltissimo la possibilità degli studenti di dare gli esami, che anche da remoto, e che il dialogo con i docenti è stato quasi impossibile. Per cui ovviamente da parte di Eduradio, da parte nostra, c'è contentezza, perché anche noi riceviamo le lettere di alcuni detenuti che ci dicono: ho preso 30 lode, ci scrivono grazie anche ai corsi di altro diritto che sono riusciti a dare gli esami con successo, e noi siamo contenti per questo. Però la nostra radio fa anche, il nostro programma fa anche denuncia su questo, per riportare un problema. Bisogna riconoscere che sono stati mesi molto difficili per chi è stato iscritto all'università dal carcere, e abbiamo notizia che in molte case circondariali gli appelli degli esami sono stati rimandati a più riprese, e ci sono persone detenute che si sono viste spostare più volte gli esami, e questo anche a discapito di una grande tristezza, di una sorta di demotivazione poi a ridare l'esame. Quindi comprendiamo le grandi difficoltà, certo, e però ci auguriamo, insomma, che tutto possa ripartire il prima possibile con una ripristinata normalità. Speriamo presto, Caterina. A tal proposito, ti dicevo, ritorniamo nella nostra normalità con Jim Morrison, che è l'artista di questa settimana. Che cosa ci proponi? Allora, ora di Jim Morrison, un altro pezzo famosissimo è People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. E rieccoci, sempre sulle note del nostro Jim Morrison che ci accompagna tutta la settimana. Siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio e con Antonella adesso parliamo di linguaggio, vero Antonella? Beh, in qualche modo parliamo di linguaggio, ma non solo, perché il New York Times ha pubblicato un interessante articolo sul languishing and flourishing, che sono due termini fondamentalmente che stabiliscono in realtà uno stato d'animo. Perché languishing è proprio il languire, quello stato d'animo che da mesi ci trasciniamo dietro a causa della pandemia, direi ormai da più di un anno e mezzo quasi, e che sarà un po' forse l'emozione preponderante del 2021. Però c'è anche un flourishing, e l'aggettivo deriva appunto dal verbo to flourish, che letteralmente significa prosperare, essere florido, ed è quella sensazione che hai quando le cose cominciano a girare per il modo giusto, no? E quando senti che le cose prendono il corso che devono prendere e quando stiamo cominciando ad avere successo nelle cose che facciamo e progrediamo nella nostra vita. E, quindi, insomma, il discorso è che dobbiamo cercare di rifiorire e il flourishing è proprio quello che dobbiamo inseguire. Ma tutto questo è molto bello perché rifiorire è la speranza anche dopo questo anno lunghissimo di pandemia. Però come si fa? Come si fa a rifiorire? Come si fa a farlo? Allora io mi rifaccio a un epidemiologo, professore di biostatica e direttore delle Human Flourishing Program di Harvard, Tyler Van der Weel, che spiega meglio questo tipo di emozione. E in effetti il flourishing è vivere la bella vita. Noi pensiamo che il flourishing sia uno stato che non coinvolga tutti gli aspetti della nostra vita, in effetti invece li coinvolge tutti, anche sulle cose più piccole noi abbiamo un rifiorire ed è, diciamo, un atteggiamento mentale che dobbiamo un po' imparare a sviluppare. Ma ci sono un po' di sfumature, diciamo, di passaggio, nel senso come facciamo a capire se il nostro stato d'animo è propriamente il languishing o il flourishing, o c'è qualcosa di mezzo? La domanda è più che pertinente, Caterina. Io mi rifaccio sempre a una professoressa di psicologia di Yale, in questo caso, che si chiama Lori Santos, e che tiene un corso che pensa si chiama The Science of Wellbeing, la scienza del benessere, e spiega che il trucco è quello di farsi un'autodiagnosi. Ti svegli pronto ad affrontare la giornata o torneresti a letto? Hai spirito di iniziativa oppure passi la maggior parte del tempo a sentirti insignificante? In effetti sei tu l'esperto di te stesso e quindi puoi soltanto tu sapere in quale fase, in quale condizione ti trovi. Una volta capito questo, è il tempo di ricorrere a quello stato di benessere che meritiamo. Quindi, insomma, il consiglio di questi studiosi è quello di fare una piccola, come dire, un piccolo sforzo. Non aspettare che tutto ti cada dal cielo, perché questa cosa purtroppo l'abbiamo imparato in tanti momenti della nostra vita e nella pandemia pure. Questa cosa non succede se non ci Se non ci sforziamo un attimo. Tra l'altro, l'autrice dell'articolo di cui vi stavo parlando, del New York Times, Danny Bloom, spiega che ci sono diversi consigli da seguire. Dopo mesi di isolamento, di difficoltà, di frustrazione, può aiutarci un po' il riconnetterci con gli altri attraverso piccoli gesti. Noi a volte pensiamo che ci sia bisogno di fare chissà che cosa. In realtà, anche una veloce chiacchierata con qualcuno, incontrato per strada, incontrato in un corridoio, può farci sentire pieni. Non devono per forza essere interazioni lunghe o complicate, basta avere la sensazione di essere visti dagli altri, perché essere visti dagli altri ci conferma, ci fa sentire vivi e poi ci dà tanta energia e ci fa sentire connessi a una comunità. Non siamo soli. Quindi consigli semplici alla portata di tutti. C'è qualche altro trucco per ricominciare a rifiorire? Sì, un altro trucco può essere appunto quello di trovare un obiettivo nella nostra vita di tutti i giorni, qualcosa che ci ispiri, che ci faccia sentire di stare andando nella direzione giusta. Questa cosa non è facile, e non è facile perché noi abbiamo sempre in mente qualcosa di esagerato, di eclatante, e gli obiettivi non devono per forza essere grandi e faticosi da raggiungere. Ci possono anche essere piccoli obiettivi. Non c'è bisogno di trovare il lavoro dei sogni, di scalare una montagna, di cimentarsi in un'impresa eclatante, come vi dicevo. Per sentirsi motivati basta anche completare un piccolo compito, come magari pulire la cucina, fare una corsetta, finire qualcosa a cui si tiene, leggere un libro. Queste cose molto semplici. E ora che la vita potrebbe, speriamo che cominci veramente tornare alla normalità, si aprono davanti a noi tante possibilità che non avevamo avuto nei mesi scorsi. E quindi anche provare a fare qualcosa di nuovo è molto utile, perché per sentirci vivi potremmo provare a fare qualcosa che non avevamo mai pensato di voler affrontare, di voler fare, come magari, che ne so, iscriverci a una lezione di cucina, sentire i nostri programmi su Radio Città Fuggico, Lepida TV e Teletricolore, in cui ci sono tante cose da fare che magari non avete mai provato prima. Grazie Antonella, e restando sempre con Mario Biondi, pezzo di oggi. Il brano di oggi è Show Some Compassion, cantata con molti artisti e presente nell'album Dare. Rieccovi, ben ritrovati su Liberi Dentro Edu Radio. Oggi abbiamo due ospiti in redazione, in questa redazione dalle lunghe distanze di Edu Radio. Gabriella Mazzotti di Forlì, volontaria, buongiorno. Ciao. E Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, il ciclista, grande ciclista vincitore del Giro d'Italia 2011, che è rimasto vittima della strada il 22 aprile 2017. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi parliamo, stando un po' nell'ambito del possibile, perché parliamo di un progetto con le donne del carcere di Forlì sulla sicurezza stradale. Dico possibile perché è un progetto che è stato lanciato ma non si è mai realizzato a causa del Covid, e chiedo a te, Gabriella, come ti è venuta in mente l'idea e di raccontarci quello che fai un po' all'interno anche del carcere o facevi nel carcere di Forlì. Sì, buongiorno. Facevo naturalmente come tutti noi volontari. Nel 2019 ho conosciuto la Fondazione Scarponi e mi sono documentata molto perché mi ha preso molto questa esperienza. Io sono partita dal discorso che davanti a un lutto così terribile ci si può abbattere, ma ci si può anche impegnare per aiutare soprattutto gli altri. Questo mi ha molto colpita e dato che sono sempre alla ricerca di proposte da sottoporre alle donne, ma che poi si estendono anche agli uomini, perché tutte le volte che abbiamo fatto incontri importanti sono stati coinvolti anche gli uomini, parlo, non so, autori che venivano a presentare il loro libro, altri personaggi, non so. Sono riuscita a far venire Don Luigi Ciotti qualche anno fa, quindi cose molto, molto importanti, ma di impatto. E quindi mi piaceva molto parlare e portare l'esperienza della fondazione. Chiaro che il primo ostacolo che mi sono posta è un messaggio molto forte, perché lì dentro magari ci sono persone che stanno scontando pene proprio legate agli omicidi stradali. E allora semplicemente un giorno in biblioteca, perché è lì che ci troviamo con le donne, ho detto: che cosa ne pensate? Ho raccontato un po' la storia, ho detto: ma e se noi invitassimo qui Marco a parlare della fondazione, che cosa ne pensate? Troppo forte il messaggio? No, assolutamente no, perché poi ci hanno parlato di loro esperienze in quanto anche vittime della strada, di uomini che stavano scontando lì a Forlì delle pene proprio. E che comunque erano state vittime anche loro o parenti di problemi legati alla circolazione stradale. E quindi a quel punto non mi restava altro che andare a conoscere Marco. E quando ho saputo che nel 2019 a luglio avrebbero proiettato il film Gambe ad Ancona, sono partita senza preavviso, ho fatto un volo fino ad Ancona, ho detto devo andare assolutamente. E se ero convinta prima, poi ne sono stata ancora più convinta. Il giorno dopo ho parlato con le donne e da lì abbiamo incominciato a lavorare su questa cosa con tanto entusiasmo, perché poi mi hanno detto: magari mandiamo un messaggio, possiamo scrivere qualcosa, dire che noi lo aspettiamo, che siamo contente se viene. E guarda, a questo proposito vi leggo proprio due righe di Manuela per Marco. Nella straordinaria lucidità, faticosamente acquisita dopo il percorso di disintossicazione, ho la consapevolezza dell'odore di paura, pericolo e morte che mi sono trascinata dietro per 25 anni nel mio ordinario sballo. Ecco, questo per dirti proprio la sensibilità nei confronti di questa tematica. E poi abbiamo parlato molto anche di come organizzare questo momento. Ho detto che Marco è molto bravo, suona chitarra, canta molto bene, scrive pezzi. E quindi hanno detto: bene, allora verrà con la chitarra, poi canteremo anche un pezzo con lui. Ecco, tutto questo per dire che è molto importante, abbiamo capito tutte assieme, parlare di queste tematiche proprio anche nelle carceri, perché Marco sta facendo tantissimo nella sua fondazione, con le scuole, in tante realtà, però un messaggio che esce dal carcere probabilmente ha un valore molto importante, molto forte. Grazie Gabriella, è già l'ora di lanciare un brano musicale, allora chiedo proprio a Marco di sceglierlo e di lanciarlo lui. Ma sì, io ho scelto una canzone dei REM, una canzone dei REM uscita, se non sbaglio, negli anni 90, Everybody Hurts, perché parla di sofferenza, di come la sofferenza sia in fondo diffusissima. Ed io credo che bisogna parlarne, non bisogna tenersela solo per sé. Per questo ho scelto questa canzone. Life. Rieccoci dopo aver ascoltato il brano dei REM, siete sempre su Liberi Dentro Edu Radio. E diceva bene prima appunto Gabriella parlando dell'omicidio stradale, stando ai dati dell'ANCI, è stato introdotto nel 2016 questo reato dell'omicidio stradale con l'articolo 589 bis del codice penale e conta numeri veramente pesanti in Italia. Pensate che sono quasi 2500 i guidatori indagati nelle grandi città per aver ucciso qualcuno, più altri quasi 19.000 sotto inchiesta per il reato di lesioni personali stradali. Quindi Marco, chiedo a te, dalla morte di tuo fratello Michele nel 2017, vittima di strada, con la fondazione a lui dedicata, ti batti per l'appunto per rendere la strada più sicura, soprattutto per gli utenti più fragili, no? Sì, diciamo che dopo la morte di Michele per noi è cambiato tutto in maniera assoluta. Il modo che abbiamo trovato, il modo migliore per andare avanti è stato quello di creare qualcosa nel nome di Michele affinché nessuno morisse più come è morto Michele. Io non dico mai morti per la strada, dico per violenza stradale, perché quello che vediamo sulla strada è violenza. È violenza quando uno non rispetta i limiti di velocità, è violenza quando si guida con i cellulari, si è distratti, è violenza quando ancora ci si mette alla guida dopo aver bevuto, aver fatto uso di droghe. È una violenza, non solo contro se stessi, ma soprattutto contro gli altri. È una violenza anche quando si parcheggia in doppia fila. Ci sono queste, diciamo, dinamiche che noi diamo per scontate, viviamo come normali, ma che in realtà ogni giorno provocano dolore, provocano morte. E poi oltre alle morti in Italia sono tantissimi feriti gravi, tantissimi, di cui non si parla mai, ma sono persone che non riescono più a mangiare da soli, che non riescono più a dormire da soli, che non riescono ad andare al bagno da soli, tantissime, tantissime, che vengono dalla violenza stradale, dai sinistri, no? Dagli scontri stradali. Ecco, noi abbiamo deciso di fare una fondazione perché vogliamo veramente cambiare la cultura di questo paese, l'approccio che c'è nei confronti della strada. E questo deve avvenire, perché l'Italia è un paese civile. E da come ci comportiamo sulla strada è uno specchio di come poi ci comportiamo nella società. E la strada noi diciamo sempre che deve essere di tutti. Di tutti vuol dire che utilizzarla chi va in auto, chi va in moto, ma soprattutto chi va in bicicletta, chi va a piedi, chi è disabile. Perché anche qui, se noi mettiamo al centro il più fragile, il più forte ci arriva sempre, ok? E quindi la strada è migliore, è una strada di pace, ed è quello che vogliamo creare. Marco, è bellissimo quello che dici, e volevo chiederti anche, siccome nel 2019 è uscito appunto Gambe, la strada di tutti, il docufilm dedicato alla Fondazione Michele Scarponi, se ce ne racconti un po' di cosa racconta, come lo si può trovare e anche come diventare soci della Fondazione Michele Scarponi. Sì, Gambe è nato per descrivere la mission della Fondazione, okay? Dove volevamo andare. Okay? Si parte dai bambini e si arriva dai bambini nelle immagini del film, quindi il concetto è quello, la strada deve essere soprattutto dei bambini, del futuro ma anche del presente, okay? Noi l'abbiamo tolti i bambini dalla strada. Gambe si può vedere su Amazon Prime in questo momento, oppure si invita la fondazione dal sito www.fondazionemichelescarponi.com, ci invitate, veniamo nella vostra città, dove volete, e lo guardiamo insieme, poi ne parliamo. Ci si può poi iscrivere alla fondazione e sostenerla, andando sempre sul sito, cioè iscriviti, ci si può iscrivere e diventare, come dire, dei partecipanti, ma si può anche donare, semplicemente, come tutte le fondazioni, e sostenerci in questo modo. In questo momento stiamo cercando di acquistare una bicicletta per disabili, un tandem affiancato, elettrico, stupendo, e quindi chiediamo donazioni per questo motivo qua, perché la fondazione si sta impegnando molto sulla disabilità, ma anche su tutto il resto. Abbiamo visto 9.000 studenti nel 2019 e vogliamo vederne sempre di più, perché crediamo molto nella prevenzione, nella conoscenza, in tutto quello che riguarda poi la didattica e quant'altro. Grazie infinite Marco, e tocca di nuovo a te lanciare l'ultimo brano musicale, augurandoci che questo tema, che rimane nell'ambito del possibile nel carcere di Forlì, magari altre carceri dell'Emilia Romagna che ci stanno ascoltando possano farlo loro, renderlo realizzabile e contattare Marco. Lancialo tu Marco. Sì, è Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato, una canzone che ascoltavamo sempre da piccoli con Michele in auto con mio padre, quindi me la porto un po' dentro insieme a tante altre canzoni italiane di quel periodo, ecco, degli anni Ottanta. E quindi Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. cetone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. E anche oggi ci salutiamo, spero che anche questo contributo con una volontaria dal carcere di Forlì, Gabriella Mazzotti, e anche Marco Scarponi della Fondazione Scarponi vi sia piaciuto. Se avete cose da scriverci, scrivetecele a redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Noi ci ridiamo appuntamento tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, con il Centro per l'Istruzione degli Adulti di Ferrara, quindi mi raccomando seguiteci anche tra poco su Lepida oppure alle 17 sul canale 636 di Teletricolore. E grazie a Pasquale Pitagnelli, il nostro montaggio delle puntate, e anche ad Antonella Cortese, sempre in redazione qui con me. Buona giornata a tutte e tutti, e noi ci rivediamo sempre domani, sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.